dal conte Guido per la Toscana, la lanza in manca il porta e la bandiera, la lanza in manca il porta e la bandiera, cavalca il conte Guido per la Toscana, la lanza in manca il porta e la bandiera, la lanza in manca il porta e la bandiera. Un cavalier di Spagna cavalca per la luna dal piede una montagna.